Ho passato 10 anni di lavoro viaggiando in lungo e in largo tra le due rive del Mediterraneo, l'West Africa, poi appunto lo ricordavi prima l'avventura di Sto con la sposa, il lavoro di reportage che ho fatto in guerra, in Siria, in Libia. A un certo punto mi sono reso conto che su questi temi, oltre diciamo al racconto dal campo dei nostri tempi presenti, ai miei drammatici, mancava proprio la prospettiva storica, cioè capire banalmente come siamo arrivati fin qua, porsi poi di conseguenza la domanda sulle soluzioni possibili, sulle utopie possibili, no? Quindi andare, come dire, al di là dell'empatia, dello stare dalla parte giusta, ma chiedersi se non si possa oggi sdoganare, questo è il grande tema, il discorso sulla libera circolazione, che poi siamo al punto di caduta finale del libro, no? Una proposta di futuro, di liberalizzazione dei visti a livello globale, provare a ragionare, ad argomentare con numeri alla mano come potrebbe essere questo mondo possibile. Ma il racconto delle migrazioni schiacciato sul presente lo distorce? Assolutamente sì, noi continuiamo a raccontare, diciamo, questo tema in perenne emergenza da ormai 32 anni, sono passati 32 anni non soltanto dall'inizio degli sbarchi, vi ricordate l'Albania, il 91, la Puglia, ma proprio dall'erezione del muro dei visti, no? È dal 91 che l'Italia ha adottato il regime dei visti franco-tedeschi, ha vietato di fatto entrando in Schengen la mobilità internazionale dei propri dirimpettai dal Mediterraneo, dal Sahel, che fino a quell'anno viaggiavano senza l'obbligo del visto, quindi liberi di entrare e di uscire dalle nostre frontiere, e quindi da quell'anno, come dire, si è poi andato ingrossando il mercato nero delle traversate senza visto. Quella prospettiva storica lì mancando, noi continuiamo a leggere questi fenomeni, no, in perenne emergenza. È come, per darvi un'immagine, come se fossimo, no, persi dentro un labirinto, no, con lo sguardo schiacciato contro il muro, e invece in questo momento abbiamo bisogno, no, di allontanarci un attimo, magari recuperare un pochino di lucidità, no, uno sguardo da distante, capire come ci siamo infilati in questo vicolo cieco senza uscita, e cercare, ripeto ancora una volta, una soluzione, un modo per tornare a legalizzare la mobilità delle persone, per smettere di contare morti, per smettere di contare i deportati, capire come uscire. Un aggettivo centrale già nel titolo è illegale. Perché è stata, come dire, trasformata l'immigrazione in una cosa di illegale? Quello che è il grande tema appunto dell'illegalizzazione, non della migrazione, attenzione, di un tipo di migrazione. Il tema, cioè il libro, quindi, ruota intorno alla storia dell'immigrazione non bianca, immigrazione, diciamo, dalle ex colonie verso l'Europa, che è quell'immigrazione che è l'Europa del boom economico, diciamo, del trentennio della ricostruzione, del boom del secondo dopoguerra, aveva fatto arrivare, incoraggiandola addirittura in regime di libera circolazione. Fino alla fine degli anni 70 non esistevano visti, cioè da tutta la France-Afrique si viaggiava liberamente verso la Francia, dall'India verso il Regno Unito, dalla Turchia verso la Germania, perché servivano quelle braccia dal lavoro che nell'Europa dell'industria pesante di quegli anni lì non si trovavano, per una serie di motivi storici, sia le stragi sul fronte della seconda guerra, sia la cortina di ferro, il blocco della mobilità est-ovest. Quell'immigrazione lì per un periodo è stata il bacino di riserva dove andare a pescare appunto quelle braccia del proletariato, della manodopera che mancavano all'appello. Ma da un certo momento in poi, in particolare dopo l'89, quindi dopo la caduta dei regimi socialisti dell'est, dopo la riapertura della mobilità est-europea, è stata in qualche modo pian pianino illegalizzata attraverso una serie di strumenti che sono appunto i visti, sono il sistema dell'asilo per come è concepito ancora oggi. La mobilità internazionale oggi conosce in qualche modo due canali, no? C'è un canale, diciamo, da un lato di liberalizzazione dei visti, di incoraggiamento alla libera circolazione di tutto quello che è l'immigrazione est europea o latinoamericana, dall'altro c'è il tentativo di governare la mobilità africana, asiatica, islamica, con regole appunto concepite negli anni 80, ormai 40 anni fa, con l'unico intento di limitare l'aumento delle popolazioni dell'ignoranza non bianca in Europa. Io nel libro, diciamo, ricostruisco passo passo l'evoluzione di quelle leggi lì e provo, insomma, a ragionarci intorno, a capire appunto come, con uno sguardo europeo, quelle norme hanno provocato un fenomeno drammatico. Ancora oggi assistiamo a queste cose, delle traversate senza visto, dei morti in mare, eccetera. Venendo proprio al presente, spesso le forze politiche più xenofobe per attaccare il fenomeno migratorio usano argomenti che riguardano il traffico di esseri umani, ma ha un ruolo la legislazione nella creazione, nel favorire certi fenomeni? Assolutamente sì, nel senso che diciamo, la tesi, diciamo, non soltanto mia, ma insomma di molti accademici che studiano queste cose da anni e che sostengono appunto che siano, come dire, appunto, cioè, c'è un processo appunto di illegalizzazione delle migrazioni non bianche che provoca poi come conseguenza che la merce proibita, ovvero la mobilità, la possibilità di viaggiare verso l'Europa per i ceti, non solo per il ceto popolare, ma anche per il ceto medio di tutto il sud globale, ecco, quella merce proibita lì, il viaggio si va a comprare poi, essendo stata illegalizzata, sul mercato nero. Il mercato nero del contrabbando, delle mafie, diciamo, che nei vari paesi gestiscono, diciamo, le traversate senza visto verso la riva nord del Mediterraneo. Poi le rotte cambiano in base agli accordi di polizia che si fanno, in base, diciamo, agli autocrati di turno che accettano i denari dell'Europa per farci da cane di guardia alle frontiere, ma rimanendo quella domanda di mobilità inevasa, il mercato nero si sposta poi da una frontiera all'altra. E la storia degli ultimi 32 anni di contrabbando è questa storia qua, cioè la storia di un tentativo di aggirare i divieti di viaggio che sono rappresentati dai visti e di viaggiare comunque, di arrivare comunque in Europa. L'hanno fatto negli ultimi 30 anni 3 milioni e mezzo di persone lungo le varie frontiere, l'Italia è soltanto una di queste. La sola via d'uscita plausibile, pragmatica, insomma, fuori da slogan, fuori da ideologie che si trova, è quella appunto di chiedersi come tornare a legalizzare la mobilità di queste persone, come tornare a far sì che le persone si spostino in aereo per un decimo della cifra che costano quei viaggi e in modo sicuro, facendo sostanzialmente quello che già fanno, diciamo, i viaggiatori dell'Est Europa o dell'America Latina, che poi sono quelli che, come dire, da cui mobilità viene al contrario incoraggiata, no? Da quella stessa Europa che poi fuori dalle campagne elettorali, poi, insomma, i governi che sono di destra o di sinistra, insomma, concordano nella necessità economica, demografica per l'Europa tutta di importare di anno in anno milioni sostanzialmente di giovani lavoratori. Lo stesso governo attuale, il governo Meloni, che certo non si può definire un governo filo immigrazionista, ha nero su bianco scritto nei decreti flussi che l'Italia ha bisogno di 500.000 di lavoratori nei prossimi 3 anni. Quindi questa piccola discrepanza, no, tra un governo che grida all'invasione per 150.000 arrivi e al tempo stesso firma un decreto per chiederne, no, altri 500.000, c'è qualche cosa che non va. E allora il tentativo è quello di smontare la retorica su questi temi e provare a ragionarne storicamente, numeri alla mano, interrogandosi su una visione poi un pochino più pragmatica e al tempo stesso utopica per il futuro.